30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Sono in carcere 21 superstiti del naufragio che lunedì scorso ha fatto 230 vittime a poche miglia dalle coste libiche. Alcuni saranno presto rimpatriati, per gli altri invece si prospettano mesi di detenzione. La conferma arriva dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, la cui missione a Tripoli è stata autorizzata a visitare gli migranti nel centro di detenzione di Tuaisha. Li abbiamo visitati ieri per la prima volta, ha detto all'agenzia Fortress Europe un funzionario italiano dell'organizzazione, e oggi stiamo tornando con un medico perché alcuni di loro hanno seri problemi di stomaco e ai reni a causa dell'acqua salata che hanno bevuto. Prima dell'arrivo dei soccorsi, infatti, i 21 sono rimasti aggrappati per 8 ore ai legni di poppa del peschereccio semiaffondato. Buonasera, ancora buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca. Non so voi, ma io vi confesso che vengo invaso letteralmente dal terrore se penso al naufragio, se penso all'ipotesi, alla sensazione di trovarmi in mare quando un barcone, quando la terra sotto i piedi in quel momento si rovescia e sparisce. Immagino o penso di poter immaginare le grida, i pianti, le invocazioni che nessuno può raccogliere. Poi il silenzio che cala sul mare. Vi faccio sentire subito un testimone oculare di quanto accaduto. Una cosa abbastanza impressionante, perché c'era questo barcone fermo alla deriva e tutta questa gente sopra, ma che non si muoveva, che non fiatava, quasi tutto accucciato, non lo so, o per l'assegnazione o per il freddo o per tutte e due. Comunque poi appena gli abbiamo passato il cavo per il rimorchio c'è stato un rianimarsi di tutta sta povera gente. Ecco, questo signore si chiama Francesco Barraco, comandante Francesco Barraco. La sua Asso 2 era al largo della costa libica, tra la costa e i pozzi offshore, e dice appunto: non lo scorderò mai. L'ha raccontata da Alessandro Mina l'altra mattina in diretta. Ha visto centinaia di uomini inermi ammassati nel buio. Continuiamo oggi a parlare dei temi della migrazione, dei temi che vengono sollecitati dalle notizie drammatiche che arrivano dal sud, dal Mediterraneo, dai confini meridionali del nostro paese. Il nostro ospite di oggi, questo flusso, questo percorso, è andato a vederlo dritto negli occhi. Non è la prima volta che lo fa, è un testimone professionale di questo viaggio, tant'è che per 3 volte è stato rinchiuso dietro le sbarre come immigrato. È accaduto in Svizzera, nel centro di detenzione di Via Corelli a Milano, e anche dopo uno sbarco a Lampedusa. Allora do il benvenuto a Fabrizio Gatti, inviato dell'Espresso. Buonasera Fabrizio e benvenuto a 30 minuti in cronaca. Buonasera e buonasera agli ascoltatori. Allora, Fabrizio Gatti, un primo commento di chi l'hai raccontato più volte e anche appunto nel tuo libro Bilal, come Bilal, cioè l'immigrato clandestino, in qualche modo ti sia rimasto dentro. Un primo commento alla notizia con cui abbiamo aperto. Beh, sono parole che stringono lo stomaco, che tolgono il respiro, anche la testimonianza del comandante italiano della nave che ha portato i soccorsi. E pensare che le persone sopravvissute poi vengano arrestate è terribile, lo fa anche la Tunisia, non soltanto la Libia, spesso senza una base giuridica, per cui si resta in carcere o in centri di detenzione per lungo tempo. A volte c'è soltanto una sorta di beneficio da questo trattamento, il fatto che queste persone almeno possano mangiare. Sono persone che hanno speso tutto quello che avevano per pagarsi il viaggio e che non li ha mai portati poi a destinazione. Ecco, hanno speso tutto, sono arrivati di fatto in quello che in qualche modo è l'ultimo miglio, anche se in realtà sono molte più le miglia che portano alle isole italiane, di un percorso che arriva da molto lontano. Già la descrizione e la carta d'identità, diciamo così, di questi 21 è impressionante, perché di fatto raccoglie 7 diversi paesi dell'Africa centrale. Un viaggio che parte a sud del Sahara. Sì, parte proprio dai paesi più poveri sulla terra. Oppure dai paesi, da città dove ragazzi, uomini e donne hanno studiato, hanno un diploma professionale, hanno ottenuto una laurea e hanno maturato la consapevolezza che quel pezzo di carta, se si arriva in Europa, può rendere molto di più e rendere qualcosa di più, magari anche semplicemente facendo da ingegneri lavori manuali come muratori, addetti alle pulizie, ma è una differenza sugli stipendi che ovviamente attrae le persone. E c'è un altro motore di tutto questo movimento, di questa partenza, che è l'economia sommersa, che purtroppo è una parte importante del nostro paese, quasi un quarto della nostra economia, il 23% è costituita da economia esentasse, illegale e spesso a contatto con la criminalità. Tu hai descritto tra l'altro dall'interno, lo ricordo agli ascoltatori, il bracciantato agricolo, quello nel sud, nella Capitanata, ed è direi un ottimo esempio di un sistema che si muove attraverso il lavoro di sudanesi, eritrei, rumeni e insomma immigrati in genere. Sì, e tra l'altro proprio questo tipo di economia ha bisogno di lavoratori che non abbiano voce, non abbiano documenti. Una persona senza documenti è ricattabile, potrebbe essere in qualunque momento consegnata alla polizia espulsa, ed è questa la condanna peggiore che può capitare a un emigrante che magari si è indebitato. Io quando ho attraversato il deserto del Sahara per scrivere poi il libro Bilal o per il reportage per l'Espresso, ho imparato che non esiste un'immigrazione, non esistono i clandestini, esistono tantissime persone, migliaia di persone, uomini, donne, ragazzi, ragazze, ciascuna con la loro storia individuale, e i motivi che spingono a partire sono molteplici. Dal papà che sta in un campo profughi come conseguenza di una guerra e ai bimbi che piangono di fame tutti i giorni e lui non ha nulla da mangiare e ti risponde alla domanda se sei un padre, se sei un uomo, devi fare qualcosa per la tua famiglia, fino allo studente che magari, proprio come succede in questi giorni e come raccontato in un film che abbiamo messo sul sito dell'Espresso sulla via di Agadez, uno studente nigeriano che magari viene attratto dalle offerte dei procacciatori di viaggi e quindi decide di partire anche all'insaputa della sua famiglia. Sì, li ho visti nel tuo ultimo lavoro, nell'ultimo filmato, spesso giovanissimi, spesso i migliori delle famiglie, quelli che, come dire, quelli che sono più rapidi, quelli che sono più curiosi anche rispetto alla vita e che affrontano questo percorso ad altissimo rischio. Sì, è una diaspora che sta togliendo tra l'altro le risorse migliori all'Africa. Ma tanto per segnalare quanto sia differente poi la provenienza degli emigranti, di chi fa questo viaggio, si va dai profughi eritrei che scappano da una dittatura e da situazioni di guerra latente, continua, ai somali che scappano da una situazione di guerra dichiarata, a cittadini della Nigeria che scappano, che magari non hanno una condizione di estrema povertà ma si allontanano e cercano di migliorare perché qualche loro amico o parente è già in Europa e si è realizzato. Addirittura pensiamo ai cittadini tunisini che, pur vivendo in una società sicuramente più avanzata e più strutturata rispetto ad alcune di quelle dei paesi subsahariani, comunque decidono di partire perché chiedono più libertà, perché vogliono realizzare i propri sogni, perché soprattutto hanno davanti un futuro che è identico, che è immobile, non dà loro nessuna prospettiva di miglioramento. Nel tuo ultimo lavoro, che abbiamo citato poco fa, c'è una dedica in fondo, una dedica ad un ragazzo di 19 anni. Ci vuoi dire di cosa si tratta? Daniel, 19 anni, nigeriano, studente universitario, è partito col fratello gemello per attraversare il Sahara, volevano loro due, dopo la morte dei genitori e dopo la perdita così del sostegno familiare, i genitori erano anche benestanti, avevano un negozio che poi con la loro morte in un incidente stradale, insomma il negozio è stato chiuso, e avevano deciso di andare a Londra un po' ingenuamente. Loro hanno detto: noi parliamo inglese, sicuramente a Londra possiamo continuare gli studi. Vanno prima all'ambasciata italiana a chiedere se è possibile avere un visto, perché loro hanno pensato che il viaggio via terra fosse meno costoso di quello aereo, e ovviamente non hanno ottenuto il visto perché venivano richieste delle garanzie monetarie anche che non potevano dare. Che loro non potevano dare, quindi hanno lavorato come insegnanti di ripetizione per i licei, poi hanno lavorato come muratori, hanno raccolto un po' di soldi, sono partiti per fare il viaggio via terra. Lasciano la Nigeria, entrano in Niger, i militari li rapinano, li fanno scendere dall'autobus, loro non hanno altri soldi da dare ai militari perché erano stati spremuti all'uscita dalla Nigeria, al posto di frontiera, l'autobus parte con i loro documenti, con i loro bagagli, io li incontro ad Agadez, percorriamo una prima parte del viaggio di 5 giorni nel deserto, attraversiamo insieme su un camion il deserto del Tenere per poi entrare nel deserto del Sahara, è un deserto... Quindi verso la Libia, in direzione nord. Sì, in direzione nord, ma siamo ancora in Niger. Ebbene, poi nell'oasi di Dirku, è un'oasi, è anche una base militare, è un'oasi dove chi arriva senza soldi finisce a lavorare come schiavo. E nell'oasi di Dirku ci perdiamo di vista. E quando io ritorno poi per raccontare cosa succede alle persone espulse dall'Italia, dall'Europa verso la Libia, e poi a loro volta espulse anche dalla Libia, rimandate verso sud, operazioni che hanno comportato decine di morti, tra l'altro. Ebbene, arrivato alla fine di questo viaggio al contrario nel deserto, ritorno ad Agadez e incontro il fratello di Daniel, casualmente. Lui mi chiama e chiedo dove fosse Daniel, a un certo punto lui mi dice che Daniel è morto di sete durante il viaggio di andata, e così mi sembrava doveroso ricordare Daniel e soprattutto raccontare quali sono le conseguenze. Non si muore solo annegati nel mare Mediterraneo, si muore molto prima, e proprio le condizioni del viaggio del deserto spesso spingono le persone a salire su barche che poco hanno delle barche, sono barche destinate ad affondare al primo soffio di vento. Però la possibilità di essere a poche ore da Lampedusa, dall'Europa, dall'Italia, e soprattutto la consapevolezza di quello che si è passato nei mesi precedenti, per qualcuno di questo viaggio nel deserto dura anche anni, ebbene, questa sofferenza alle spalle spinge le persone a buttarsi in avanti, a continuare il viaggio. Del resto il motivo per cui migliaia di persone sono arrivate in Libia è quello di arrivare in Europa, e al momento non c'è nulla, lo vediamo, insomma, nemmeno le minacce di arresto in Italia, nemmeno la proposta di obbligare i medici a denunciare i clandestini. Nulla ferma questo grande flusso. 30 minuti in cronaca. Bentornati a 30 minuti in cronaca, io sono Gigi Donelli, con noi oggi è Fabrizio Gatti, inviato dell'Espresso. Ripartiamo da Agadez. Sì, Agadez in Niger, proprio sotto la Libia, lungo la rotta del deserto che porta in Libia, è anche il centro della regione dove sono stati trovati grandissimi giacimenti d'uranio. Il secondo giacimento di uranio al mondo è a pochi chilometri da Agadez, e dal 2007 in quella regione si combatte una guerra. Un gruppo, una minoranza di Tuareg ha deciso di attaccare postazioni dell'esercito, anche rivendicando una sorta di autonomia regionale, di gestione delle risorse, di controllo sui rischi di contaminazione dovuti alle miniere. Quindi siamo di fronte a una regione desertica che però nasconde una grande ricchezza. L'uranio è il combustibile delle centrali nucleari e l'alternativa all'economia basata sul petrolio. E non è infinito. E non è infinito, i giacimenti più grandi sono il più grande in Canada, il secondo più grande in Niger, e soprattutto la Francia fa valere un accordo militare del 1961 che prevede che il Niger dia tutto l'uranio e altre risorse strategiche alla Francia, o in caso lo volesse vendere all'esterno deve fare questa operazione concordandola con la Francia. Ebbene, nel 2006 il governo del Niger, che è indipendente, che è eletto, è una democrazia, ha voluto in realtà far valere la regola di mercato, che è quanto l'Unione Europea ha imposto alla zona del Sahel, mettendo all'asta, una sorta di asta, insomma offrendo al miglior offerente le concessioni. E 15 concessioni sono andate al Canada, grande concorrente mondiale per l'uranio, grande concorrente della Francia. La Francia ha avuto soltanto 4 concessioni, sembrava dovesse perdere anche il mega giacimento di Muraren, che da solo raddoppia la produzione di uranio, si passa da 5.000 a 10.000 tonnellate l'anno per la società Areva, che è una società statale francese che controlla la raccolta, le miniere e la produzione di combustibile nucleare. Ebbene, in tutto questo, quando la Francia non ottiene ciò che vuole, alla fine casualmente scoppia questa ribellione con un attacco a sangue freddo molto simile agli attacchi terroristici messi in atto in Afghanistan contro le forze NATO, contro gli stessi soldati francesi. Quindi i Tuareg si mobilita, ma attacca una postazione dell'esercito. Poi si scoprirà che uno dei comandanti di questo gruppo era stipendiato dalla società Areva francese con 85.000 euro perché si occupasse di sicurezza per Areva. Questo ha scatenato le proteste del governo del Niger, che ha espulso prima il responsabile della sicurezza di Areva, che è un ex militare, addetto militare all'ambasciata francese, quindi un esperto di questioni di 007 intelligence in quella regione. L'intelligence lì vuol dire accaparrare le risorse per il futuro. Ma tutto questo cosa ha a che fare con la migrazione e coi grandi percorsi? la guerra ha destabilizzato la regione, la rotta che tra il 2005 e il 2008 era stata chiusa nel novembre dell'anno scorso è stata riaperta perché è un affare che rende, ribelli, trafficanti Tuareg, militari del Niger, alcuni, non tutti, e una parte anche con l'appoggio di militari libici, si sono accordati per lasciar partire questi convogli carichi di emigranti che vogliono arrivare in Europa. Tra gennaio e febbraio da Gadez, che è un punto di passaggio obbligato, sono transitate 10.000 persone, molti di questi sono anche minorenni, tanto che il ministro dell'educazione della Nigeria è andato da Gadez a chiedere alle autorità di fermare i minori di 15 anni che transitano per andare in Libia, e i risultati di questo grande afflusso lo stiamo vedendo già con quello che è successo in Libia. Tra l'altro entra in gioco anche il ruolo di Gheddafi, presunto amico dell'Italia, degli accordi, sostenitore degli accordi con l'Italia, ma molto più amico degli interessi francesi, tanto che il 24 luglio 2007, quando il direttore generale della società francese nucleare francese Areva viene espulso dal Niger, Gheddafi lo stesso giorno regala a Sarkozy la scena internazionale, liberando le 6 infermiere bulgare condannate a morte con l'accusa di avere diffuso l'AIDS ai bambini, certo, in Libia. Una scena, quindi, tra l'altro un gesto, fatto che ha portato poi a dimenticare quello che stava accadendo in Niger, e tutto il mondo parlò del nuovo ruolo di Sarkozy sulla scena africana come grande mediatore, e questo è stato un regalo di Gheddafi. Dobbiamo dire che c'è una differenza tra prima e dopo l'accordo con l'Italia, che ci costerà 5 miliardi di dollari in 20 anni. E cioè che prima dell'accordo Consiglio Berlusconi, le barche partivano da spiagge remote, da zone isolate, e l'abbiamo visto purtroppo in questi giorni, dopo l'accordo le barche cariche di emigranti partono addirittura dal centro di Tripoli. Ecco Gatti, una domanda importante: quello che stai raccontando è qualcosa che tu hai visto ad Agadez? Voglio dire, ad Agadez non è un luogo dove le macchine o i migranti fuggono e se ne vanno a piedi nel deserto, no, ci sono dei convogli. Io sono stato ad Agadez pochi giorni fa, per arrivare ad Agadez mi sono unito a un convoglio militare e c'erano minibus, autobus e camion carichi di passeggeri, alcuni sono viaggiatori locali ma anche carichi di emigranti. E quali sono gli emigranti destinati alla Libia e all'Europa? Lo si scopre quando si arriva al posto di blocco all'ingresso di Agadez, dove i militari hanno un atteggiamento abbastanza sospettoso nei confronti degli europei, perché ai giornalisti è vietato l'accesso in questo momento per via della guerra, certo, e io ho dovuto in qualche modo trovare delle scuse, insomma, e poi nascondermi per entrare in città. Ma al posto di blocco, quando io sono arrivato e tutto il convoglio non era ancora arrivato, c'erano già 400 ragazzi in coda, stranieri, non europei, tutti africani, e che erano lì e dovevano ciascuno pagare all'incirca 10 dollari ai militari per poter procedere, e poi chi non aveva i documenti in regola doveva pagare 20 dollari. Quindi si paga e si prosegue. Una volta arrivato al confine libico, voglio dire, c'è un altro passaggio: la Libia ha degli accordi con l'Europa. Agadez partono convogli che devono essere scortati, e sono scortati dai militari che sanno bene cosa c'è su questi camion, perché si vedono, certo, camion enormi che da noi li vengono usati per trasportare la terra nelle cave, lì vengono caricati con 250-300 passeggeri. Arrivati in Libia si paga un'altra tangente ai militari libici, di fatto i camion entrano. In Libia non ci si può spostare senza essere controllati da militari o da polizia, è un territorio totalmente controllato, e quindi questi convogli, questi camion sono liberi di accedere in Libia, e se entrano in Libia è perché c'è la complicità di chi li lascia passare. C'è un altro aspetto poi: qualora si decidesse di respingere questi convogli diventerebbe un'operazione pericolosissima, perché respingere persone, camion carichi di persone nel deserto provoca la morte per sete, per fame di queste persone che tornando indietro dovrebbero ripercorrere. Stiamo parlando di un viaggio che dura in tutto nel deserto dalle 3 settimane a un mese, si tratta di 2000 chilometri, ripercorrere quella distanza di nuovo senza avere carburante, rifornimento di acqua e di viveri sarebbe una condanna, una fine tragica, per cui anche dire adesso partiamo con le espulsioni diventa un fatto molto pericoloso. Il problema va affrontato, l'abbiamo visto anche, addirittura andrebbe affrontato a livello strategico con tutto lo scacchiere di quei paesi. Ora ci arriviamo per concludere, sentiamo anche dalla regia dei rumori di fondo che ci portano appunto in questo tuo ultimo viaggio, un viaggio che, ricordo ai nostri ascoltatori, potete vedere attraverso il sito dell'Espresso Online, un viaggio che parte appunto dalle coste occidentali, risale verso la capitale nigerina Niamey, un viaggio che è diretto a nord fino a quello che nella maggior parte dei casi, diciamo, è un epilogo senza epilogo, perché le storie poi non vengono per lo più conosciute se non da un ristretto numero di addetti ai lavori, se non invece diventano di dominio pubblico quando l'epilogo è quello tragico che vi abbiamo raccontato all'inizio di questa puntata. Allora, Fabrizio, in questi anni si è mai fermato il flusso della migrazione? Ci sono stati molti interventi, ci sono stati accordi, politiche europee, politiche, accordi bilaterali, italo-libici, italo-tunisini. La tua percezione di questo fenomeno qual è oggi? Ma si tratta di provvedimenti che si sono sempre limitati alla presunzione di uno sbarramento, del fatto di sigillare frontiere che in realtà attraverso il deserto non hanno barriere. Non si è mai però intervenuti sulle origini dell'emigrazione. Faccio un esempio. L'Eritrea è un paese che nei primi anni 90 ha ottenuto l'indipendenza, da allora il presidente eritreo ha tenuto il potere, ed è la causa dell'emigrazione di migliaia di ragazzi e ragazze, perché l'Eritrea vive uno stato di guerra permanente. Due guerre in pochi anni. E questi, sì, e questi ragazzi fuggono per questo motivo. Il presidente Isaias Afewerki nel 2004 è stato ricevuto, faccio un esempio, ma non solo dall'Italia, ma è stato ricevuto in pompa magna dalla regione Lombardia, e lui stesso è la causa della fuga dall'Eritrea di migliaia di ragazzi. Se la regione Lombardia, l'Italia e anche l'Unione Europea facessero pressioni e isolassero questo dittatore, alla fine non avremmo l'emigrazione dall'Eritrea, e l'emigrazione dall'Eritrea ha costituito più del 30% delle persone sbarcate nel 2008 su Lampedusa. E vediamo come il sostegno ad Afewerki ha alimentato il più del 30% degli sbarchi su Lampedusa, e senza questo sostegno probabilmente, e la perdita di potere da parte di Afewerki, elimineremmo quegli sbarchi, e ridurre l'emigrazione e gli sbarchi a Lampedusa del 30% sarebbe già un eccezionale risultato. Vediamo com'è. Intervenire sulla migrazione può significare, a tuo avviso, solamente intervenire sui paesi, sulle democrazie, sullo sviluppo economico? Fatto sì, sicuramente quando si parla di andare all'origine non è solo retorica, ma si tratta di interventi che altrimenti spostano le rotte. Quando la Libia aveva aderito alle pressioni italiane, aveva chiuso, e così il Niger, avevano chiuso la rotta che io poi ho percorso, quella diretta che sale in Libia, anche la più pericolosa, il viaggio si spostò verso il Mali, l'Algeria, trovando più difficoltà. Il grande flusso attuale è anche il risultato della chiusura della rotta verso il Marocco e la Spagna, verso le Canarie. Molte persone sono costrette quindi a venire verso la Libia. Insomma, i flussi cambiano i loro percorsi, ma il grande fiume non si interrompe certo mettendo un muro, cercando di mettere un muro tra noi e il resto del mondo. Siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio Fabrizio Gatti, inviato dell'Espresso, per essere stato con noi. Ricordo 30 minuti @radio24.it per le vostre segnalazioni, naturalmente @radio24.it per riascoltare questo e tutti gli altri programmi di Radio 24. Una buon fine settimana a tutti voi.